La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e bentrovati a un nuovo appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato al centenario del movimento futurista. Ospite ai nostri microfoni Esther Cohen, curatrice della mostra Futurismo, Avanguardia, Avanguardie, presso le Scuderie del Quirinale a Roma. Nella seconda parte vi proponiamo un radiodocumentario sulla tragedia che nel 1998 ha coinvolto i navigatori della Sydney Hobart, la regata dei temerari. La versione integrale andrà in onda su History Channel mercoledì 1 aprile alle 4:40 con il titolo Inferno in alto mare. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. Il 20 febbraio 1909 il quotidiano francese Le Figaro pubblica in prima pagina il manifesto fondatore di un nuovo movimento letterario, il futurismo. Ha inizio un'avventura artistica, ma anche politica, oltre che letteraria e ideologica, che avrà una grande importanza nell'Italia prima, durante e subito dopo la Prima Guerra Mondiale. Protagonista assoluto del nuovo movimento è Filippo Tommaso Marinetti. A 100 anni di distanza, 3 capitali europee, Parigi, Roma e Londra, ospitano all'interno dei loro spazi culturali più noti e prestigiosi un'esposizione dedicata a questo centenario, all'arte e alla filosofia futurista. Emergono chiaramente alcune delle chiavi di lettura dell'esperienza futurista. Ad esempio, l'attenzione al nascere dei nostri attuali panorami cittadini, la progressiva trasformazione delle città in metropoli e l'affermazione delle fabbriche. I futuristi esaltano concetti come energia, progresso, velocità, dinamismo e, sul piano strettamente politico, la guerra come sola igiene del mondo, oltre al militarismo e al patriottismo. Noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità. Il coraggio, l'audacia, la ribellione saranno elementi essenziali della nostra poesia. La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità penosa, l'estasi e il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo e il pugno. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo sia arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità. Non vi è più bellezza se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere un capolavoro. Noi vogliamo glorificare la guerra, sola igiene del mondo, il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d'ogni specie e combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica e utilitaria. Parigi è il centro dell'arte, metropoli in continua trasformazione. Quando i futuristi presentano per la prima volta le loro opere alla galleria Bernheim Jeune, è subito scandalo. È una pittura di colori e linee che esalta lo spirito del progresso in aperta antitesi al cubismo. Come in tutti i campi del pensiero umano, alle immobili oscurità del dogma è subentrata la illuminata ricerca individuale. Così bisogna che nell'arte nostra sia sostituita alla tradizione accademica una vivificante corrente di libertà individuale. Noi vogliamo rientrare nella vita. La scienza d'oggi, negando il suo passato, risponde ai bisogni materiali del nostro tempo. Ugualmente, l'arte, negando il suo passato, deve rispondere ai bisogni intellettuali del nostro tempo. Noi proclamiamo che il dinamismo universale deve essere reso come sensazione dinamica, che nell'interpretazione della natura occorrono sincerità e verginità, che il moto e la luce distruggono la materialità dei corpi. Se tutta la vita è lotta, rischio, se i futuristi amano le sommosse e le rivolte che scuotono il vecchio ordine, la guerra, che è scontro massiccio, collettivo, viene percepito come il momento culminante di un dinamismo innovativo che investe e travolge popoli e civiltà. Alla guerra è attribuito il potere di rinnovare radicalmente la storia e l'uomo in modo quasi taumaturgico. Però gli eventi tragici della Prima Guerra Mondiale, con il loro triste corollario di ben 10 milioni di morti, l'inutile strage, come la definì Benedetto XV, si incaricheranno, come sappiamo, di smentire l'ideologia futurista e di quanti avevano creduto nella guerra appunto come sola igiene del mondo, così come si affermava nel manifesto del 1909. Abbiamo in linea Esther Cohen, che è il commissario della mostra di Roma alle Scuderie del Quirinale. Innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Ci può condurre un po' per mano, idealmente, nel percorso della mostra? Qual è il tragitto che unifica le opere che sono esposte? Certo, allora il tragitto è piuttosto semplice, nel senso che la mostra nel titolo stesso indica un tragitto, cioè la mostra si chiama Futurismo e ha un sottotitolo Avanguardie, Avanguardie, per cui il tema della mostra è un confronto tra il futurismo e le avanguardie contemporanee internazionali. Sto parlando ovviamente dei primi anni, delle prime avanguardie, e cioè delle avanguardie tra il 10 e il 1915. La mostra è divisa su due piani. Al primo piano io ho allestito tutte le opere dei futuristi italiani, e quindi le opere di Boccioni, Carrà, Severini, Balla e Russolo fino al 1912, e poi si sale al secondo piano e ci sono la prima sala introdotta da opere di Boccioni tra il 1912 e il 1913, le opere che affrontano il tema del dinamismo vero e proprio, e in rapporto, in confronto quindi con Il nudo che scende le scale di Duchamp, e poi da lì inizia questa sorta di carrellata attraverso le avanguardie, dove si possono vedere le opere dei cubisti, dei vorticisti, degli artisti, dei cubofuturisti russi, dei sincromisti americani, e quindi in una sorta di dialogo aperto e di scambio tra stili e teorie e idee. E nell'ultima sala ci sono delle opere di Balla del momento dell'interventismo, quindi a partire dal 1914 e fino al 15, proprio, che vengono a chiudere un po' un'epoca, un momento e un periodo. Ecco, quella dei futuristi, la mostra lo mette bene in luce, è un'esperienza forte, oltre che controversa, un'esperienza di rottura, di movimento, diceva lei poc'anzi, dottoressa Cohen. Come si può sintetizzare, in pochi minuti ovviamente, l'eredità del movimento futurista sul piano pittorico ovviamente in prevalenza, ma non solo, direi, sul piano culturale più in generale? Certo, sia sul piano pittorico ovviamente è una, diciamo, un'influenza che ha avuto luogo soprattutto in quegli anni, diciamo negli anni attorno alla prima guerra, insomma. Ma io direi di sì, sì. Ed è un'influenza soprattutto legata a questa forza dinamica delle linee e questo frazionamento della luce che viene coinvolto in una sorta di vortice esplosivo di materia, di colore, di forme. Da un punto di vista invece più così concettuale, diciamo, l'esperienza del futurismo con questa strategia comunicativa, questa impressionante maniera di diffondersi capillarmente a tutti i livelli e in tutte le esperienze artistiche, direi che questa forse è l'eredità più forte che ci è pervenuta del futurismo, cioè questa energia che continua in fondo a diffondersi, a diramarsi. La storia e la memoria. Bentornati alla Storia e la Memoria. Da oltre mezzo secolo, il 26 dicembre, nella città di Sydney, ha luogo un importante evento tradizionale australiano. Davanti all'Opera House, l'inconfondibile monumento la cui forma ricorda le vele spiegate di un'imbarcazione, prende vita una manifestazione che racconta l'eterna ossessione dell'uomo per il mare. Una regata dove i navigatori vengono messi alla prova sfidando un oceano pericoloso. Vi proponiamo, in collaborazione con History Channel, un radiodocumentario sulla tempesta che nel 98 si è abbattuta sulla gara uccidendo 6 marinai e cambiando per sempre la vita dei sopravvissuti. John Gibson si iscrive alla Sydney Hobart, una durissima regata di 4 giorni sull'oceano, un evento in cui per tradizione i principianti come lui gareggiano con alcune delle più belle e veloci imbarcazioni del circuito. Era la mia prima Hobart ed ero molto emozionato. Non avevo nessun brutto presentimento, forse per la mia ingenuità di principiante. Era come camminare inconsapevolmente sul ciglio di un burrone. Ricontrollai ogni cosa più volte con mio figlio, che mi aiutò a sistemare l'equipaggiamento con l'imbracatura di sicurezza e la luce stroboscopica. Mi diceva: «Papà, questo ti serve, questo no, questo non portarlo». Era più emozionato di me, perché aveva già fatto altre Hobart, ma ora a partecipare era il fossile, il vecchio papà. Sembra una banda di matti. Ci sono ragazzi dappertutto, tipi enormi che si scolano delle birre, tanto per farsi vedere prima della Hobart. Ci sono famiglie e amici, ed è molto emozionante. L'avvocato Gibson si unisce agli uomini della Winston Churchill. L'equipaggio è composto da dilettanti esperti che, a loro dire, partecipano solo per il gusto di navigare nell'oceano. Accanto a questi dilettanti entusiasti c'è chi fa veramente sul serio. Il presidente del colosso del software Oracle ingaggia alcuni dei migliori velisti in circolazione per condurre alla vittoria la sua Sayonara. Eravamo i favoriti. Eravamo tutti pronti, ma non pensavamo al peggio. Sapevamo che sarebbe stata dura, ma non sospettavamo che le nostre vite sarebbero state in pericolo. 115 imbarcazioni si dirigono verso la linea di partenza. È il primo giorno della Sydney Hobart del 1998. John Gibson, equipaggio Winston Churchill. È forza allo stato puro. Sono uomini con i loro giocattoli. Alcuni preferiscono le Ferrari e altri le imbarcazioni. Ma sono giocattoli da prendere sul serio perché valgono milioni di dollari. Quando il vento gonfia le vele, tutte le cime vibrano e la barca inizia a muoversi. Ci sei tu, il mare, gli elementi e quella forza. Nessuno può salire su una barca del genere e non provare questa emozione. È qualcosa di profondo, di molto profondo. Ma la gara di John Gibson non ha a che vedere con la velocità. La Winston Churchill sta riportando in vita un pezzo di storia. La vecchia imbarcazione, infatti, aveva partecipato alla prima edizione della gara nel 1945. Era stata un'audace scommessa tra uomini di mare che si sfidavano per oltre 1000 chilometri, da Sydney ad Hobart, in Tasmania. Il percorso si snoda a sud lungo la costa per poi attraversare i 290 chilometri dello stretto di Bass. È questo tratto a rendere la sfida interessante. Lo stretto, infatti, è uno dei più pericolosi tratti di mare del mondo. Per spaventarsi a vicenda, i velisti lo chiamano inferno in alto mare. Larry Allison, equipaggio Oracle. Al mondo non esiste altro posto come quello stretto. Le onde sono altissime, il tempo è imprevedibile. Se un meccanismo nel nostro cervello non ci permettesse di reprimere il dolore di certe esperienze, nessuno parteciperebbe alla Sydney Hobart 2 volte. Sono le condizioni del mare durante una tempesta a rendere lo stretto così famigerato. Un esperto in passato ha misurato le onde da una piattaforma petrolifera e comunica i suoi risultati a un membro della Churchill. Ci disse che le onde, nella peggiore delle ipotesi, potevano raggiungere i 18 metri di altezza, ma che a intervalli regolari di 15 onde ce ne sarebbe stata una alta 25 o 30 metri, un'onda anomala. Aggiunse che una tempesta tale si verifica forse ogni 100 anni e che se sulla flotta in mezzo allo stretto di Bass se ne dovesse abbattere una, le condizioni di mare sarebbero state quelle. Ma lo stretto di Bass ha sempre rappresentato una sfida irresistibile per i velisti. Anche se Larry Ellison è il favorito, la sua fidanzata lo implora di non partire. La rassicurai dicendo che la Sydney Hobart era una gara di quelle che la gente considerava pericolose e stimolanti, ma che in effetti non era affatto rischiosa. È una gara ardua, difficile, una vera prova per la barca e l'equipaggio, ma non così pericolosa. 20 anni fa una tempesta anomala colpì l'equipaggio della Fastenet, uccidendo alcune persone, ma si trattò di un evento raro e le probabilità che potesse accadere di nuovo erano una su 1 milione. Ma gli ingredienti per una tempesta di tale portata si stanno formando. I venti caldi e la corrente guidano le imbarcazioni a sud, ma davanti a loro, dall'oceano del sud, è in arrivo un fronte freddo. I due fronti stanno per scontrarsi, rimane da capire solo dove e quando accadrà. A Sydney, l'agenzia meteorologica sta già seguendo le traiettorie dei due fronti per fornire dati ufficiali ai partecipanti della gara. Dalla sua casa sulla costa, un meteorologo ingaggiato da Larry Ellison osserva l'evoluzione del fenomeno. Sa che è in arrivo una tempesta, ma i segnali indicano che si abbatterà a una certa distanza dalle imbarcazioni. Secondo la convinzione generale, c'era un sistema frontale piuttosto intenso proveniente da ovest, ma il sistema di bassa pressione a cui avrebbe dato origine si sarebbe formato ad est della Tasmania, per poi allontanarsi sfiorando appena la flotta. Mentre le barche fanno rotta verso sud, il vento dietro di loro è già molto violento, ma stanno sfrecciando troppo velocemente per chiedersi il perché. Larry Allison, equipaggio Oracle. Il vento continuava a intensificarsi. Era violento e tempestoso. Mentre portavo la barca sentivo che stava accelerando. Era incredibile. Andavamo al doppio della velocità record stabilita dalla Morning Glory. Stavamo volando verso sud e questo ci fece capire che qualcosa non andava. Mezz'ora dopo la partenza giungono nuove informazioni meteorologiche e Badham rimane esterrefatto. Il fronte si sta riavvolgendo verso lo stretto di Bass, ma la notizia peggiore arriva dalle previsioni delle prossime 48 ore. Gli stretti anelli delle isobare indicano la formazione di una tempesta sul percorso della regata. Pensai, maledizione, è un disastro. La bassa pressione non si sarebbe formata a destra della Tasmania, ma nel quadrante orientale dello stretto, nella mattinata di domenica, direttamente davanti alla flotta. La tempesta si sta formando in un'insenatura, nelle acque basse dove le correnti dello stretto di Bass si scontrano con quelle dell'Oceano Pacifico. L'agente del vicino porto di Aden aveva ribattezzato la zona il Buco Nero. La sera del primo giorno i concorrenti vengono avvisati della formazione di una tempesta con venti fino a 90 km orari. È l'avvertimento più severo che il dipartimento possa emettere, ma a bordo le reazioni sono tiepide. Come gli altri, anche l'equipaggio della Winston Churchill sottovaluta l'avvertimento. Le barche continuano a veleggiare a sud. Un gruppo di imbarcazioni, tra le quali la Winston Churchill, è alle spalle del leader. John Gibson, equipaggio Winston Churchill. Al crepuscolo, delle nuvole nere incombevano su di noi. I fulmini erano straordinari. Sembrava una tempesta da cartone animato, di quelle violentissime che fanno restare i bambini aggrappati alle poltrone. Era così. Ma la tempesta di fulmini è solo il preambolo. Alle sue spalle i fronti atmosferici si scontrano e i contorni di una violenta burrasca davanti alla flotta diventano sempre più minacciosi. Larry Allison, equipaggio Oracle. Credevo che avessimo attraversato quel fronte atmosferico terribile, che ce lo fossimo lasciato alle spalle e che nient'altro ci avrebbe ostacolato. Andai sotto coperta alla nav station per parlare con Mark Whittaker, il nostro navigatore. Sapevo che stavano per pervenirci le immagini satellitari e appena apparvero sullo schermo rimanemmo di sasso. Seduti davanti al computer e a quell'immagine, rimasi a bocca aperta. Riuscii solo a scuotere lentamente la testa. Girai verso Mark e gli chiesi se aveva mai visto qualcosa di simile. Scosse il capo senza dire una parola. Allora replicai, io sì, sul canale del meteo, e lo avevano definito un uragano. Le imbarcazioni più grandi riescono ad attraversare lo stretto. Alle loro spalle il peggio deve ancora scatenarsi. L'oceano è un elemento caotico. Il normale boato di una tempesta si trasformò in un sibilo altissimo, in un suono bizzarro che sembrava venire dall'oltretomba. La storia e la memoria. Continuiamo il radiodocumentario sulla tragedia che nel 1998 ha coinvolto i navigatori della Sydney Hobart, la regata dei temerari. La tempesta ha ormai raggiunto le imbarcazioni e alle 14.30 un satellite rileva il primo debole segnale di soccorso. A 500 km di distanza, da una base aerea nei pressi di Melbourne, un'ambulanza aerea decolla per una ricognizione. Il messaggio captato proviene dal centro della tempesta. Il primo a raggiungere la posizione è l'elicottero della TV che riesce a localizzare un'imbarcazione nei guai. la Stand Aside. Da un membro dell'equipaggio Stand Aside. Sono abituato ad attraversare fronti atmosferici, ma questo girava come un vortice. La Stand Aside si trovava nel mezzo e metà della sua copertura era stata spazzata via. È il peggiore scenario che si possa presentare nello stretto di Bass. La Stand Aside è la prima vittima di un'onda alta quasi 25 metri. Ogni tanto si vedevano delle onde enormi, sia in lontananza che alle proprie spalle. L'albero della nave era alto 20 metri e la cresta dell'onda superava di oltre 3 metri. Qualcuno ha urlato: cambiamo direzione, ma era troppo tardi e siamo finiti dritti contro l'onda. I 12 uomini di Adelaide sono alla deriva e imbarcano molta acqua. La Stand Aside può solo attendere e sperare nei soccorsi. E presto sarà solo una delle 12 barche a dover lottare per sopravvivere nella tempesta. Hobart si trasforma in una catastrofe. Più di 12 imbarcazioni sono intrappolate in una tempesta peggiore del previsto. I primi tentativi di soccorso dimostrano quanto è pericoloso e difficile aiutare chi ne rimane coinvolto. Per tutto il giorno la forza del vento e delle onde è l'unico segno visibile da terra della tempesta che si scatena al largo. A Eden, i pescatori al riparo nel porto sanno che non c'è via d'uscita dalle onde e dai venti che imperversano. Quando sei in mezzo all'oceano, ci sei solo tu con la tua barca. Puoi affidarti solo a te stesso e a lei. Ma il clima può sopraffare entrambi. Non ci si può aspettare che imbarcazioni concepite per essere veloci reggano il mare in tempesta. Sono come case costruite con la paglia. Non reggono. Nel tardo pomeriggio del secondo giorno viene lanciata un'imponente operazione di soccorso. In tutto verranno portate in salvo 55 persone, tra cui l'equipaggio della Sword of Orion, soccorso 8 ore dopo la scomparsa di Glyn Charles. Mentre la notte si avvicina, la tempesta non allenta la presa sullo stretto di Bass. Nessuno ha notizie della Winston Churchill. Le due zattere sono disperse da 5 ore. Poco dopo la mezzanotte, la zattera Larry di Allison, Gibson e Stanley inizia ad avere seri problemi. Larry Allison, equipaggio Oracle, equipaggio Winston Churchill. Le onde continuarono a sballottarci fino a tarda notte, quando un'onda mostruosa sollevò la zattera e la ribaltò. Eravamo proprio nei guai. Ne avevamo passate tante, ma in quel momento la situazione era critica. Non era il posto migliore in cui trovarsi. Eravamo in mezzo all'oceano, nero come la pece. La nostra zattera stava sottosopra e le onde continuavano a infierire. La copertura era finita sotto i nostri piedi. Mentre studiavamo cosa fare, capimmo che il problema più grande sarebbe stato l'ossigeno. Sapevamo che dovevamo fare qualcosa per non finire d'aria. Mike disse che sarebbe uscito per ribaltare la zattera. Gli risposi che così facendo sarebbe morto. In quel momento pensai fra me: cavolo, forse stai esagerando. Non erano passati neanche 30 secondi dalle mie parole quando ci colpì un'onda gigantesca. Mike era ancora vicino a me e se fosse uscito sarebbe stato travolto. Poco distanti, i quattro della seconda zattera vivono la stessa situazione e devono fare i conti con la mancanza d'ossigeno. Dovevamo rigirare la zattera a tutti i costi. Uno di noi doveva uscire e rovesciarla. Era un'idea piuttosto spaventosa per chiunque, perché lì fuori non esisteva il concetto di giusto o di sbagliato. Non esistevano regole, non esisteva Dio, non c'era niente. Potevamo soltanto affidarci al nostro istinto per decidere come risolvere il problema. Occorre rimuovere il giubbotto di salvataggio per uscire dalla zattera e affrontare onde di 15 metri e venti che soffiano a 100 km all'ora. Lo skipper della Winston Churchill si fa avanti. Scesi per creare un'apertura e quando risalì Richard non c'era più, era in acqua. Riuscivo a sentirlo da fuori che diceva: sono qui, tirate in questo modo. È riuscito a ribaltarla e ci ritrovammo nel verso giusto. Sulla zattera di Stanley e Gibson, ancora capovolta, inizia a mancare l'ossigeno. Devono prendere una decisione. Era ovvio che chiunque fosse uscito con quel buio per raddrizzare la zattera rischiava di essere trascinato via e di finire disperso. Quindi esitammo. Alla fine decidemmo di fare un buco e far entrare un po' d'aria. Non c'era altra via d'uscita. E così, proprio come degli sposi che tagliano la torta, abbiamo messo tutte le nostre mani sul coltello. Rimanemmo così per un po', finché un altro mostro ci riportò nella posizione iniziale. Improvvisamente il foro della loro sopravvivenza diventa il loro problema. Sotto il loro peso l'apertura si allarga. Lo squarcio continuava ad allargarsi lungo il fondo della zattera. Andammo avanti così per tutta la notte. Quando la zattera si raddrizzò, lo squarcio si allargò e ci ritrovammo in una sorta di enorme salvagente, una ciambella. Alle prime luci dell'alba una nuova onda si abbatte silenziosa su di loro. Mi sentii spinto. Continuavo a cadere e ruzzolavo e mi rotolavo a una velocità incredibile. Scivolavo giù per un'onda mostruosa. Il vento aveva creato un'onda così grande che ci portò su fino alla cresta e poi si ruppe, scaraventandoci giù. Alla fine tutto si fermò e risalì per prendere aria. Dopo aver respirato urlai: ci siete tutti? Ci fu solo una risposta. Mi guardai intorno e lì, a circa 70 metri da noi, c'era un'enorme scia di spuma bianca dove si era rotta l'onda. Sentii delle voci e poi vidi una luce stroboscopica, una luce blu lampeggiante. Capii subito che si trattava di Jim, perché entrambi ne avevamo una. Ero contento che Jim stesse bene. Allora accesi la luce e pensai che così avrebbe potuto vedere che stavo bene. Sentii delle voci, ma non distinguevo le parole. Sentii delle urla e riconobbi le voci. Erano Jim, forse Michael e John. Tutti urlavano: «Dove siete?» oppure «State bene?» o cose del genere. Ci trovavamo a circa 70 metri da loro, in questa ciambella che si allontanava a una velocità forse di 3 nodi, fra queste onde feroci e il vento che soffiava con violenza. Non potevamo fare nulla, non potevamo fermare la zattera, non c'era modo di tornare da loro. Fu l'ultima volta che li vedemmo. I corpi di Mike Bannister e di Jim Lower vengono recuperati il giorno dopo. Quello di John Dean non sarà mai trovato. Per i due superstiti e per le altre zattere alla deriva, le possibilità di soccorso sono sempre più remote. All'alba del terzo giorno, gli aerei civili disponibili si uniscono alla ricerca della Winston Churchill, mentre durante la giornata si fa un primo bilancio della tragedia. L'equipaggio della Sword of Orion viene recuperato nel mattino e più tardi vengono portati in salvo i sopravvissuti di un'altra barca, la Business Poznajad. Lo skipper è morto per infarto, mentre un membro dell'equipaggio è affogato. In totale, 12 imbarcazioni vengono abbandonate, 4 affondano senza lasciare tracce. Nel tardo pomeriggio, un aereo dell'aeronautica parte alla ricerca di una zattera. Si trova a circa 145 km dall'ultima posizione rilevata della Winston Churchill. Sotto di loro appare la zattera di Paul Lamptin e dei suoi 3 compagni. Fu un sollievo incredibile. Dopo il terrore e il dolore, quando vieni portato in salvo, senti una vocina dentro che ti dice: «Ma io sapevo che ce l'avresti fatta. Perché ti stavi preoccupando?» All'alba del quarto giorno, la prima imbarcazione supera lo stretto. Grazie alla sua velocità si è salvata dalla tempesta per poche ore. Solo in quel momento vengono a sapere della tragedia avvenuta alle loro spalle. Larry Allison, equipaggio Oracle. Eravamo in testa e nessuno era consapevole degli eventi. Pensavamo solamente alla mattina, al sorgere del sole e a quanto fosse bella l'alba. Eravamo tutti pensierosi mentre procedevamo verso l'arrivo e quasi nessuno proferì parola. Fu emozionante tagliare il traguardo e sapere che eravamo ancora vivi. Delle 115 imbarcazioni partite da Sydney, solo 44 arrivano al traguardo. Il martedì successivo la tempesta si sposta al largo del Pacifico, lasciando dietro di sé 6 vittime. L'indomani Sydney è pervasa da un senso di recriminazione. Gli organizzatori vengono attaccati per non aver interrotto la regata in tempo e le barche per non essere rientrate. A Aden i pescatori hanno assistito alla tragedia. Per loro entrare nello stretto di Bass durante un avviso di tempesta equivale a un atto di arroganza. Ma tutti i superstiti della Winston Churchill hanno vissuto in prima persona le brutali conseguenze della loro vulnerabilità in una tempesta. John Gibson non lo dimenticherà mai. È bello essere vivi. La vita è meravigliosa. Ogni giorno è fantastico. Ho avuto una seconda possibilità e cerco di sfruttarla al meglio. Continuo ad amare il mare, ma ora so di cosa è capace. Il mare è il mare, mentre noi siamo esseri umani che non possiamo controllarlo. A Hobart il mare è impazzito, le onde erano una furia. L'uomo si trovava dove non doveva stare e 6 persone sono morte. Spero che tutti noi abbiamo imparato la lezione. Prima di chiudere, vi ricordiamo che la versione integrale del documentario che avete appena ascoltato andrà in onda su History Channel il 1 aprile alle 4:40 con il titolo Inferno in alto mare. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Daniele Casagrande. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.